L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, questa è la prima puntata dell'altra Europa del nuovo anno. Ricomincia un anno insieme, un anno che sarà tosto, che sarà interessante, che sarà stimolante per questa Europa che si avvia verso le elezioni appunto di maggio, le elezioni europee, saranno elezioni di cambiamento, saranno elezioni importanti, e noi tenteremo in queste settimane, in questi mesi, di avvicinarci con consapevolezza, cosa che tentiamo di fare ogni sabato con il nostro programma. L'attualità politica e economica viene raccontata da Radio 24 ogni giorno. Noi il sabato cerchiamo altre sfumature, altri punti di vista. Le coordinate è un programma in collaborazione con Euronet Plus, network europeo di radio, euronetplus.eu, il portale che vi invito come sempre a frequentare. Ci sono tanti dossier, tante inchieste, tanti approfondimenti. Se invece volete incontrarci anche nelle nostre piazze virtuali, Euronet Plus R24 oppure Federico Taddia con la chiocciolina davanti, sia su Twitter sia su Facebook. Ogni sabato un viaggio, oggi partiamo da Göteborg. Today, more than half of all Europeans live in cities with 50,000 or more inhabitants. Giving everyone access to transport, information and communication, including technology, public spaces and services in cities, has become a real challenge. Quello che state ascoltando è lo spot dell'Access City Award, premio per le città accessibili, una competizione tra città europee lanciata dalla Commissione europea per promuovere l'accessibilità dell'ambiente urbano per le persone con disabilità di ogni tipo, disabili fisici, non vedenti, anziani o persone con capacità ridotte. Beh, l'Award 2014 è andato proprio a Göteborg, la città svedese che ha vinto. Il secondo premio è stato attribuito alla Grenoble, il terzo alla polacca Poznan. Per capire perché Göteborg si è guadagnato questo ambito e importante premio, abbiamo invitato Cindy Falket, lavora per l'ambasciata francese ed è però stata così inviata proprio in Svezia per capire queste buone pratiche, studiarle, analizzarle, vedere anche se sono replicabili. Ciao Cindy, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, grazie a te. Allora, ti hanno chiesto, vai, guarda, vivi quello che si vive a Göteborg e cerca di capire perché là le cose funzionano. Giusto, ecco, e questo è il mio lavoro, quello che faccio per la Francia, come hai detto tu, quindi anche noi ci siamo interessati a questa città quando ho ricevuto il team, perché noi già sapevamo che la Svezia è un paese che si interessa molto perché queste politiche hanno problematiche, però Göteborg è stato davvero qualcosa di speciale, nel senso che loro cercano proprio di fare in modo che la città sia accessibile per tutti, qualunque sia le disabilità, quindi cercano di includere le persone con ogni tipo di disabilità, come dicevi tu. Mm-hmm. Sarebbero gli anziani e quelli che sono a mobilità ridotta, cioè proprio tutti. La filosofia svedese è un po' quella che è la città che si deve adattare agli abitanti e non il contrario. Giusto, e questa è anche una linea, cioè proprio svedese, l'idea fondamentale delle politiche pubbliche, che tutti hanno la stessa valore, non è l'individuo che deve adattarsi alla società, è la società che deve fare a modo di includere tutti, di adattarsi, di fare a modo che tutti hanno gli stessi diritti, condizioni di vita, tipo. Mm-hmm. E quindi hanno davvero una legge sociale che è molto generosa, che cerca veramente di fare a modo che tutti hanno un posto più o meno nella società. Certo. Cindy, ci sono degli esempi concreti, le prime cose che ti hanno colpito, che hai visto anche da occhio esterno? Cioè, per me come francese il primo punto sarebbe quello dei trasporti, forse, che a Göteborg per esempio hanno un tram, sì, che è davvero fatto in modo che tutti possano entrare di su, e poi se non riesci, se abiti un posto nella città dove non c'è una fermata di autobus o di tram che sia accessibile per te, poi anche ti mandano più o meno un piccolo pullman o un taxi per fare in modo che tu poi possa andare dove vuoi. senza, cioè, non c'è bisogno, non sei costretto a stare a casa perché sei disabile. Ok, già questo mi sembra il primo punto proprio per favorire e garantire la mobilità. La mobilità delle persone, giusto. Quindi la comune davvero è molto impegnata e sono veramente al modo che tutti possano utilizzare i trasporti. Quindi questo mi ha colpito davvero, perché non è facile, no? Credo che siano tipo 10% della popolazione che abbia bisogno di questo tipo di servizi, quindi sarà abbastanza importante, quindi non è facile. Prima di salutarci, sono esperienze replicabili, nel senso basta copiarle e riproporle nella propria città, o sono esperienze che hanno bisogno comunque di un cambiamento culturale, che hanno bisogno di tanti servizi, di tante relazioni, di tante connessioni? Cioè, tu per esempio che sei lì proprio per capire come esportare queste buone pratiche. Giusto, cioè, dipende di che cosa stiamo parlando, perché quando c'è una politica, come dici tu, c'è una domanda di cultura. I svedesi vedono certe cose in un modo che non sarebbe compatibile, diciamo, con in un contesto francese, ma soprattutto bisogna capire che, cioè, i paesi e le comuni non hanno le stesse responsabilità. Okay. Quindi il modo di organizzare le loro politiche non è simile a quello francese, e quindi certe cose non è che sia possibile di prendere una politica e poi cercare di farla funzionare in un altro paese. Quindi bisogna capire e bisogna, cioè, riflettere, vedere che cosa abbiamo noi che sarebbe compatibile, vedere anche quali sono i loro problemi, perché non è che tutto sia perfetto, no? Assolutamente. Ma Cindy, come mai che parli così bene italiano? Ok, cioè, no, è stato un bel po'. No, io sono nata alla frontiera tra l'Italia e la Francia, in Savoia, verso il nel Seges. Quindi, cioè, da piccola lo parlavo anche alla scuola, però è stato un bel po'. Adesso si sta mescolando con lo svedese. Ti stai contaminando anche tu. Grazie davvero a Cindy Falket per averci fatto assaggiare appunto cosa vuol dire vivere in una città che ha vinto il premio come migliore città accessibile ai disabili. Per disabili si intende appunto tutte le categorie che hanno difficoltà di inclusione sociale. Grazie ancora Cindy, buon anno. Grazie a te, buon anno. Grazie. Visto che parliamo di 2014, visto che parliamo di città, con questa musica, che è la musica dello spot ufficiale, andiamo a Riga, che è capitale europea 2014, insieme a Umea in Svezia. Lo sapete, ogni anno due città vengono scelte, diventano un po' il cuore culturale dell'Europa, città che vengono trasformate, città che cambiano, città che diventano fucina di esperienze, di incontri, di teatro, di letteratura, di tutto ciò che è arte, di tutto ciò che è cultura. Andiamo a Riga e ci andiamo insieme a Irina Sazanova dell'Istituto Lettone, che collabora con l'organizzazione di Riga, capitale della cultura 2014. Ciao Irina, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno. Buongiorno a te. Riga2014.org è il sito ufficiale per conoscere l'intero programma. Irina, è pronta la città per questo anno? Sì, certo, la città è pronta, gli organizzatori e responsabili di Riga 2014 sono pronti a questa partita. Anche i lettoni aspettano questo evento, specialmente le persone che sono già interessate all'aspetto culturale. Certo, perché insomma è comunque una grande occasione. Irina, ti chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo, è il momento delle informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo da te per conoscere qualcosa di più appunto su questo importante anno. L'altra Europa. Eccoci qua ancora all'Altra Europa, siamo insieme a Irina Sazanova, stiamo parlando di Riga, capitale europea della cultura 2014. Allora, Irina, ci stavi dicendo che c'è comunque attesa, la città è pronta, come ci si è preparati? C'è stato comunque un coinvolgimento dei cittadini? sarà più di 200 attività di vario tipo, di quelle internazionali e di larga scala agli eventi minori nei piccoli quartieri di Riga. La città è molto accogliente e ospitale sia per la presenza di numerosi visitatori stranieri che per quelli che vivono regolarmente nel centro urbano e che si spostano giornalmente. Comunque Riga è sempre stata una città di cultura. Ricordiamo, è famosa per la lirica, per il coro, insomma la musica la fa da protagonista, ma non solo la musica. Tutti si innamorano della città dopo una visita. Sfogliando il programma, come detto, sono più di 200 eventi. C'è una cosa che vuoi segnalare o che a te piace particolarmente? Se dire gli aspetti, naturalmente per noi sarà molto importante l'apertura del nostro nuovo edificio della Biblioteca Nazionale in data 18 gennaio. La biblioteca sarà operativa entro agosto 2014, ma questo nuovo edificio nel panorama di Riga è attesa da diversi anni a livello internazionale. Allo stesso tempo offriamo ai nostri giovani artisti sbocchi creativi nei luoghi meno convenzionali, nei quartieri di Riga, nei locali della fabbrica, vicino ai tradizionali edifici culturali, per esempio l'opera e tutti i nostri musei. Che ricordiamo che comunque l'occasione dell'essere capitale della cultura è veramente l'opportunità di far conoscere anche l'altra città, l'altra Riga in questo caso, perché uno degli obiettivi è assolutamente quello di sviluppare turismo, sviluppare attività nei quartieri meno noti, meno conosciuti. È veramente un'occasione di sviluppo per tutto il tessuto della metropoli. Al riguardo, Irina, ci vuoi consigliare un posto che magari non è tanto noto, una zona che non è nota, che non è nelle guide di Riga, ma che vale la pena visitare? Bisogna assolutamente visitare il mercato centrale di Riga, dove si ricorderà la prima guerra mondiale, iniziata nel 1914, perché la fine di questa guerra ha portato alla creazione della Costituzione in Lettonia. Secondo me bisogna visitare le città vecchie, che ha 812 anni, in stile Art Nouveau, bellissimi parchi, buoni ristoranti, anche belle donne. Ok, ci hai convinti. Grazie davvero Irina, ci ritroveremo sicuramente perché vorremmo viverlo anche noi questo anno insieme a voi, quindi sarà l'occasione per conoscere meglio Riga e per entrare anche nel dettaglio nel programma di tutte le attività. Grazie davvero, ciao, buon anno. Ciao, ciao, buon anno. Ricordiamo riga2014.org, il sito ufficiale. Europost-it. Per la Befana, regalati un lavoro all'estero. Nuove opportunità di lavoro in Nord Europa da cogliere entro i primi giorni dell'anno nuovo. Il servizio di orientamento al lavoro in Europa Eures segnala 3 occasioni rispettivamente in Danimarca, in Norvegia e in Irlanda. I danesi cercano un esperto di social media, mentre norvegesi e irlandesi richiedono guide turistiche e supporto multilingue ai clienti. Per saperne di più, candidarvi e rimanere aggiornati su altre ricerche di personale in Europa, andate sul sito del servizio Eures, ec.europa.eu/eures. Sicuramente anche nel 2013 la parola più utilizzata, la parola che più ha accompagnato l'Europa è stata la parola crisi, non solo crisi economica, ma anche crisi di valori, anche crisi culturale. Il 2014 noi non abbiamo e non vogliamo avere la sfera di cristallo, sarà un anno dove ci saranno le elezioni, ci auspichiamo quindi che sarà un anno anche di cambiamento, non solo di indirizzo politico ma soprattutto di approccio culturale verso questa strana cosa che si chiama Europa. Non vogliamo fare previsioni, però ci piacerebbe offrire orientamenti, offrire visioni. E per fare questo abbiamo scelto di invitare un ospite che conosce bene il concetto di crisi, conosce soprattutto quelle che sono le conseguenze, quelle che sono le possibili derive. Ci sembrava la persona migliore con la quale così indicare possibili direzioni di questa Europa nel 2014. Diamo il benvenuto alla sociologa Chiara Saraceno. Buongiorno Saraceno, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno e buon anno. Buon anno anche a lei. Allora, appunto, non vogliamo fare previsioni, ci piacerebbe però così dare qualche stimolo, lanciare qualche sassolino, qualche possibilità. Noi ci crediamo nell'Europa delle possibilità. Come, dove andiamo? Dove dovremmo andare? Dove andiamo e invece dove potremmo cercare, esatto, di andare? Esatto. Perché sono due cose diverse e ahimè, se noi guardassimo le tendenze attuali, andiamo verso una progressiva disaffezione nei confronti dell'Europa, anche in Italia. L'Italia è stata a lungo, forse in modo ingenuo e poco, come dire, consapevole, la più europeista. Gli italiani sono stati sempre i più europeisti di tutti, i primi della classe in questo, e adesso invece stanno rapidamente e forse altrettanto, come dire, ingenuamente o comunque altrettanto acriticamente anti-europeisti. Forse qui ci vuole un discorso sia da parte dell'Europa sia da parte degli europeisti italiani che dia qualche motivazione in più per continuare a essere europeisti. Va detto che negli ultimi anni, in particolare negli anni della crisi, non c'è stato uno sforzo che fornisse degli elementi perché uno potesse avere fiducia nell'organismo europeo, che è molto cambiato anche in questi anni e che negli ultimi anni ha mostrato forse la sua faccia insieme più burocratica, più economicistica, meno sociale. Si è parlato spesso del bisogno, dell'esigenza di respirare una sorta di doppia identità, l'identità nazionale, quindi nel nostro caso quella italiana, e poi quella europea. Siamo lontani, mi sembra, da questo passaggio. Ci sembravamo avvicinati e adesso ci stiamo un po' allontanati, perché l'Europa è tornata a essere molto l'Europa dei paesi che oggi sono più identificati non tanto dalle loro tradizioni belle nazionali, che dovrebbero confrontarsi, mescolarsi, trasformarsi reciprocamente, quanto dai vincitori e i vinti, i forti e i deboli, i creditori e i debitori, e non sempre, oltretutto, quando si dice che la Germania è creditore e l'Italia è debitore, le cose non stanno esattamente così, ma questa è nella percezione sia dei tedeschi che degli italiani, e sicuramente è nel modo in cui funziona nei luoghi di presa di decisione. E allora questo non dà una grande identità europea, per cui ci sono i tedeschi che si vivono come quelli che sono costretti all'Europa e che ci portano via i soldi, minacciano il nostro welfare, dobbiamo pagare i debiti dei greci e degli italiani nulla facenti e così via. Gli italiani e i greci che si sentono il fiato sul collo, si sentono costretti nelle decisioni che devono prendere da un potere oscuro là che impone senza comprendere. Questo non aiuta, tra l'altro, sempre neppure ad assumersi le proprie responsabilità quando è necessario, cioè, certo. Per cui lo chiede l'Europa e questo, come dire, sgrava dalle responsabilità chi deve decidere. Ma invece, appunto, occorrerebbe non solo andare a battere i pugni sul tavolo a dire vogliamo un po' più di flessibilità, ma che tipo di Europa vogliamo, che tipo di mercato, che tipo di economia, che tipo di competitività, quindi un pochino togliere il pallino a chi ha le ricette economiche, che tra l'altro si si rivelano sempre così efficaci, certo. Lo dicono persino ormai molti economisti, ma soprattutto quale disegno di società europea vogliamo? Anche un po' più solidale, che non significa che c'è chi deve pagare i debiti degli altri, ma significa che forse le priorità dovrebbero essere anche un po' ridisegnate. Sarà molto complicato convincere i 500 milioni di europei ad andare a votare, c'è un grande timore a livello internazionale che le prossime elezioni possano segnalare una bassa adesione. Se lei potesse ideare una campagna per invitare i cittadini ad andare a mettere la crocetta a maggio, su cosa punterebbe? Intanto bisognerebbe vedere, cioè bisognerebbe trovare, riflettere di nuovo, elaborare noi insieme perché conviene stare in Europa, perché la percezione è che forse non convenga. Cioè, nel senso che sia i forti che i deboli hanno per opposte ragioni l'idea che forse non convenga più, per cui sembra sempre solo che il pericolo sia che se usciamo dall'euro il patatrac non è sufficiente, ecco, occorre trovare una motivazione. Allora, un'Europa che si impegna complessivamente e non con un taglio semplicemente ai propri bilanci, per investire nel lavoro, nella ricerca, anche nella solidarietà, che non è solo la solidarietà verso i più poveri, ma vuol dire nel sostenere i paesi anche meno efficienti, ma per diventare non solo con minor debito pubblico, ma anche un po' più efficienti e certo. Più efficaci nella propria spesa e anche nei propri investimenti. Insomma, bisogna che troviamo, in questo momento non ho una ricetta, ma quello che mi è chiaro è che se non si trova una motivazione forte alla convenienza, e forte non puramente economica, che oltretutto è in dubbio, a stare in Europa, a fare l'Europa, che riguarda le politiche interne, ma pensi anche alla politica estera. Cioè, ogni volta che l'Europa è stata messa di fronte a delle scelte, cosa fare nei paesi problematici, in Siria, piuttosto, non ha mai parlato con una voce solo, non ha trovato, per cui non esiste quell'Europa lì, almeno la percezione che non ci sia. Saraceno ha appena pubblicato un libro molto bello intitolato Eredità, dove si parla molto anche di confronto tra generazioni. Potranno essere proprio le nuove generazioni a dare una svolta a questa Europa, secondo lei? Ah, forse sì, perché sono quelle che perlomeno magari viaggiando, magari emigrando, magari, ma comunque sentono che a volte le loro chance sono in Europa. Non in Europa, cioè nel senso è in altri paesi di cui si sentono più cittadini, anche se qui c'è il rischio di una dicotomizzazione: quelli che hanno le risorse lo possono fare, vanno in giro, e quelli che invece vivono soltanto il contraccolpo, vivono il fatto che il lavoro qui non c'è e non c'è neanche altrove per loro, per le loro. Per cui io spero che almeno dai più giovani, ma non solo loro, perché è facile per noi, io appartengo alla generazione dei vecchi, scaricare su di loro che adesso devono pensare loro dopo che gli abbiamo tagliato l'erba sotto i piedi. Esatto, sì, quindi non lo trovo molto carino questo. Quindi tutti noi, perché queste chance date dal stare in Europa, dal poter stare qui ma anche là e poi tornare, siano un po' più generalizzate, cioè certo. Che la famosa Europa della mobilità non sia una cosa per cui c'è qualcuno che migra pesantemente per necessità, e c'è qualcuno che migra perché è un'opzione in più. Ecco. Che sia insomma anche un'Europa della scelta, che credo che sia un valore assoluto. Grazie davvero a Chiara Saraceno, buon grazie anno a voi, e a presto. Buon anno ancora che a voi. Grazie. Adesso un Europost-it, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Pasolini a Parigi. La capitale del cinema europeo rende omaggio al regista ed intellettuale italiano con una mostra alla Cinémathèque Française. Pasolini Rome è interamente dedicata alla vita e alle opere di Pierpaolo Pasolini, con un percorso che segue la sua biografia in ordine cronologico, dall'arrivo di Pasolini a Roma alla notte in cui viene ucciso sulla spiaggia di Ostia. Un quarto di secolo di storia italiana raccontato attraverso i film, le poesie, le interviste agli amici, gli amori, le persecuzioni e l'impegno politico. Il percorso tra documenti e oggetti legati all'autore è disegnato attraverso una mappa interattiva che aiuta a seguire anche online i momenti legati alla vita dell'artista. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 26 gennaio 2014. Per saperne di più, andate sul sito della Cinémathèque Française. cinematech.fr. L'altra Europa. Ancora buon sabato e ancora buon anno da Federico Taddia. Questa è l'altra Europa e adesso vogliamo guardare avanti, vogliamo andare a raccogliere visioni, prospettive, suggestioni su questi mesi che aspettano l'Unione Europea. L'abbiamo già detto, sarà un anno importante, quindi è giusto, è bello orientarci e avere chiare quelli che devono essere i nostri fari. E per farlo abbiamo l'onore di avere qua con noi il ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi. Buongiorno e buon anno, ministro. Buongiorno e buon anno a lei e a chi ci ascolta. Un 2014 impegnativo e stimolante, questo è quello che ci aspetta, vero? Sì, soprattutto direi stimolante, perché e dallo stimolo nascerà poi l'impegno. Il primo elemento che viene immediatamente in mente quando guardiamo al 2014 dal punto di vista europeo è l'appuntamento delle elezioni per il Parlamento europeo, che si svolgeranno alla fine del mese di maggio. Sono elezioni estremamente importanti, soprattutto perché l'Europa e le decisioni prese a livello di Unione Europea sono entrate in modo estremamente visibile nella nostra vita quotidiana in questi ultimi anni, e quindi forse sono le prime elezioni in cui andremo tutti a votare come elettori ed elettrici, pensando effettivamente all'Europa e non magari vedendo questo appuntamento elettorale come una verifica di rilevanza politica maggiormente nazionale. E poi c'è un secondo elemento ancora più specifico e particolare, soprattutto per noi italiani: nel secondo semestre del 2014 all'Italia spetterà la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Era accaduto l'ultima volta nel 2003 e accadrà la prossima volta, visto che nel frattempo l'Europa è arrivata a 28 membri, certo, e che stiamo parlando di presidenze semestrali, tra 14 anni, nel 2028. Quindi si tratta anche qui di un avvenimento di estrema rarità che rasenta la unicità, e di conseguenza sarà molto importante per il nostro Paese dimostrare una sua capacità di guida, seppure durante questo periodo temporale della costruzione europea. Certo, Ministro, in relazione a come si è chiusa anche il 2013 col Consiglio europeo poco prima di Natale, la vede con ottimismo l'inizio del nuovo anno? Ma guardi, il 2013 è stato per l'Europa, vista nella sua media generale, per molti paesi dell'Europa, l'anno in cui o è iniziata una ripresa economica, anche una ripresa di occasioni di lavoro dopo la grave crisi finanziaria ed economica globale che ha toccato tutti i paesi e tutti i sistemi nel mondo, e che è stato l'avvenimento che quasi tutti giudicano il più sconvolgente dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, nel 2013 in quasi tutti i paesi europei c'è stata una situazione migliorata, anche nel nostro paese, che pure non ha ancora messo il segno più nella valutazione della sua crescita, però nell'ultimo trimestre del 2013 si è arrestata quella crescita negativa che purtroppo ci aveva accompagnato nei mesi e negli anni immediatamente precedenti. Quindi noi guardiamo al 2014 come Italia e come Italia in Europa ad un consolidamento della ripresa economica e a una ripresa di crescita nel paese, che vuol dire più occasioni di lavoro, vuol dire anche guardare il futuro con maggior ottimismo, con maggior fiducia, con maggior speranza. La stessa cosa lo fanno tutti gli altri nostri concittadini europei. Ecco, noi non dobbiamo mai dimenticarci che abbiamo, oltre alla cittadinanza nazionale, anche la cittadinanza europea, è proprio per questo che votiamo alle elezioni del Parlamento europeo. Quindi in tutti i paesi europei si guarda al 2014 come l'anno in cui dovrebbe accentuarsi, consolidarsi, manifestarsi la ripresa economica e quindi anche le opportunità di lavoro e quindi, come dicevo poco fa, uno sguardo migliore, più positivo al nostro futuro. Comunque una doppia occasione, sia le elezioni che appunto il semestre a guida italiana, per avvicinare probabilmente i cittadini al gusto, al sapore dell'Europa. A tal proposito, Mizzo Moavero, lei sia da ministro ma sia in tutti questi anni che ha avuto incarichi istituzionali molto importanti, però ha espresso sempre un amore folle per l'Europa. Come l'ha alimentato e come lo alimenta ancora questo amore? Ma vede, io credo che quando noi pensiamo all'Europa, anche se tendiamo, lo stiamo forse facendo anche in questa conversazione, a declinarla sempre in terza persona, come di un qualcosa a noi leggermente estraneo, in realtà noi nel corso di questi 63 anni dall'inizio del processo di integrazione, di unificazione europea, abbiamo partecipato alla costruzione di un qualcosa di unico nella storia dell'umanità, vale a dire un insieme di paesi che consapevolmente hanno via via rinunciato a porzioni della loro sovranità nazionale per condividerla in una altra entità che è quella che abbiamo chiamato per molti anni Comunità Europea e che oggi chiamiamo l'Unione Europea. Questa è un'opera formidabile. Se noi la guardiamo con l'occhio della storia, abbiamo un continente europeo che combatte secoli di guerra, in particolare combatte quella che io considero una terribile guerra civile che inizia nel 1914, tra l'altro quest'anno, tra pochi mesi, certo, a luglio, ricorderemo il centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, ma la Prima e la Seconda Guerra Mondiale sono un'immane, tragica, drammatica guerra civile europea. Da queste ceneri l'Europa risorge attraverso un processo pacifico di unificazione. Noi abbiamo 64 anni di pace ininterrotta in Europa dal 1950, quando fu lanciato il primo appello alla costruzione di una comunità europea. Sono un bene prezioso, ma durante questi anni di pace l'Europa ha costruito un periodo di benessere e di diffusione di benessere inedito nella sua storia, e a questo hanno contribuito molto cose che spesso noi consideriamo magari un po' tecniche, magari un po' marginali, come la creazione di un grande mercato di libero scambio di dimensione continentale in cui i beni e i servizi inevitabilmente hanno prezzi inferiori, ma noi non abbiamo anche un afflusso continuo di normativa che viene adottata in Europa con la collaborazione di tutti gli stati che ne fanno parte, il voto del Parlamento europeo in cui ci sono deputati eletti in ciascuno paese, e questa normativa porta ad una complessiva e articolata modernizzazione, non solo coordinata, che è molto importante per paesi e comunità che si trovano così vicine, ma soprattutto rappresenta in certe aree veramente un salto di qualità. Pensiamo alla legislazione ambientale, pensiamo, certo, alla legislazione in materia di salute. Ecco, tutto questo è stato Europa. Guardiamo un secondo nella prospettiva futura. nel 2030, che sembra lontano, e invece ma non qua, è poi esatto. così lontanissimo, nessuno degli attuali paesi europei che fanno parte dei prime 8 economie mondiali sarà ancora parte di queste prime 8 economie mondiali. Lo sarà invece l'Europa Unita. E allora, guardando indietro e guardando avanti, così come l'Italia del 1600, anziché unirsi in Stato nazionale, si avviava, pur essendo in quel momento il centro della civiltà e della tecnologia in Europa, ad una decadenza di 2 secoli, ecco, così oggi l'Europa, se riesce ad unirsi di più, rappresenta realmente il nostro futuro. Mi sembra un ottimo auspicio. Ministro, un augurio all'Europa, tra i tanti che si potrebbero fare, un augurio per questo 2014. Ah, io credo che l'augurio maggiormente vicino alle esigenze dei cittadini sia quello che l'Europa, le istituzioni europee, gli stati e i governi che ne fanno parte trasformino la consapevolezza acquisita nel corso dei 2 anni che ci precedono, il 2012 e il 2013, in una determinata volontà di fare un salto di qualità. Noi ci siamo accorti in questi 2 anni che insieme possiamo farcela, nessuno è stato abbandonato, anche i paesi in maggiore difficoltà. Insieme ce l'abbiamo fatta, ma abbiamo visto anche che i nostri meccanismi decisionali devono e possono essere migliorati. Ecco, l'augurio è che l'Europa acquisisca nel corso del 2014, accanto a una consolidata ripresa economica e una ritrovata fiducia, anche la determinazione politica a migliorare i propri assetti istituzionali, ove occorra anche modificando i trattati base che reggono il funzionamento dell'Unione Europea. Che sia l'Europa delle persone, delle opportunità, e un'Europa che dia alle persone la voglia di sognare. Grazie davvero al ministro Enzo Moavero Milanesi. Ministro, buon anno, buon 2014. Grazie, buon anno e buon 2014 a tutti. Grazie. Un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. AAA, l'Europa cerca assistenti di lingua italiana. Vi state laureando in lingue e letterature straniere e vi piacerebbe muovere i primi passi nel mondo dell'insegnamento? Per l'anno scolastico 2014-2015, il Ministero dell'Istruzione cerca giovani interessati a collaborare con istituzioni scolastiche europee come assistenti di lingua italiana. Gli assistenti affiancheranno i docenti di italiano fornendo un originale contributo alla conoscenza della lingua e della cultura della propria nazione. I paesi di destinazione? C'è solo l'imbarazzo della scelta tra Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna. Il bando, l'application e tutti i dettagli sono disponibili sul sito del MIUR, istruzione.it, cercando assistenti di lingua nella sezione dedicata alla Direzione Generale Affari Internazionali. Le domande possono essere inviate entro e non oltre il 3 marzo 2014. L'altra Europa. Rap, parole in effetto, qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impassate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che... È un po' la puntata dei buoni propositi, questa prima puntata dell'Alta Europa del 2014. Abbiamo parlato con la professoressa Saraceno, abbiamo parlato con il ministro Moavero per avere così visioni legate al futuro. Crediamo fortemente che uno dei campi in cui si dovrà lavorare di più è quello dell'educazione contro ogni tipo di discriminazione, quindi vogliamo chiudere questa puntata facendovi conoscere un progetto italianissimo, però un progetto che credo debba e possa essere replicato perché va a toccare i contenuti giusti, ma soprattutto lo fa nel modo giusto. Il progetto si chiama Potere alle Parole, è ideato dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e con noi c'è Antonio Giuliani. Ciao Antonio, buon anno. Ciao, buonasera, buon anno. Un progetto che mette il rap al centro, il rap come linguaggio per comunicare con le giovani generazioni. Diamo il benvenuto anche a un rapper e direttore artistico del progetto, Amir Hissa. Ciao Amir. Ciao, ciao a tutti, buon anno. Buon anno anche a te. Allora Antonio, potere alle parole, il rap nelle scuole contro le discriminazioni, in cosa consiste? Beh, è un progetto che l'UNAR ha voluto portare nelle scuole per incominciare a parlare di discriminazione e di razzismo con un linguaggio diverso. Abbiamo pensato che era inutile rivolgersi, anzi non inutile, ma forse volevamo portare un nuovo linguaggio, un nuovo modo di affrontare questi temi nelle scuole. E quale miglior linguaggio che quello del rap? Un linguaggio che i ragazzi conoscono bene, che si presta a mille attività. Spesso e volentieri il rap, ma Mirro saprà dire meglio di me, viene presentato come un linguaggio cattivo, un linguaggio pieno, addirittura esso stesso razzista. In realtà non è così. E allora noi volevamo parlare di discriminazioni razziali, di omofobia, di contrasto all'omofobia, di contrasto a tutte le forme di discriminazione, utilizzando uno strumento che i ragazzi conoscono bene. E abbiamo pensato, grazie all'associazione Il Razzismo Una Brutta Storia e a 5 grandi rapper, fatemelo dire, con la direzione artistica di Amir, di andare in 5 istituti scolastici nelle regioni obiettivo convergenza e parlare di discriminazioni con il rap. Mm-hmm. Ecco, Potere alle Parole, promosso e finanziato, come ho detto, dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, retepariopportunità.it, il sito per conoscere anche tutte le attività e i progetti, anche progetti finanziati dai fondi europei e appunto dei tanti lavori, delle tante iniziative in essere. Amir, il rap come linguaggio giusto perché? Sono le parole che fanno le differenze? È il ritmo che fa la differenza? È il contesto che fa la differenza? Perché grazie al rap si possono trattare contenuti forti? Allora, prima di tutto perché noi rapper sono sicuro che abbiamo un appeal maggiore verso i ragazzi più che i loro professori, senza nulla togliere ai loro professori. Però se Amir, Gammon o Chiave, che sono i rapper che ho coinvolto, vengono a parlarti di qualcosa, di discriminazioni, tu da studente gli dai attenzione. Purtroppo la scuola in questi anni, forse gli strumenti che ha utilizzato sono quelli tradizionali e che i ragazzi vivono un po' con distanza. Quindi noi arriviamo, il rap diventa semplicemente un'esca, diventa un'esca per potergli far passare alcuni messaggi che sono quelli delle discriminazioni. Anche noi rapper veniamo discriminati, perché spesso si pensa a questo genere come un genere sessista, violento, ma non è così. I rapper, soprattutto che ho coinvolto, scrivono dei testi di spessore, c'è un linguaggio, diciamo, veramente di alto livello, c'è cultura, quindi quello che noi spieghiamo ai ragazzi è che si chiama potere alle parole proprio perché giocheremo con le parole intorno a queste tematiche. Il messaggio che gli passa è questo: chi conosce più parole, chi ha un vocabolario più ampio, riesce a scrivere dei testi più elaborati rispetto agli altri. Quindi ci sono 2 livelli, uno educativo, anche a livello proprio di scuola, quindi di linguaggio, di parole, di verbi, e l'altro sono le tematiche, che sono le discriminazioni. Il tutto questo con il rap, che è il genere musicale ad oggi in Italia più ascoltato da tutti i ragazzi. Certo. La cultura quindi come soluzione, la cultura ancora una volta per vincere in questo caso le discriminazioni. Amir, quindi è il linguaggio giusto, diventa accattivante quasi, no? Parlare in questo modo di argomenti che loro conoscono, o c'è diffidenza rispetto a queste tematiche? Cosa avete trovato nei primi incontri nelle scuole? Allora, è stata una grande, grande sorpresa anche per noi, perché ci aspettavamo ovviamente da parte loro anche un po' di annoiarli, mentre comunque quando si sono messi a scrivere i loro testi ci siamo resi conto che spesso i problemi di cui parliamo nelle scuole, veramente tra i ragazzi, sono dei problemi già risolti, quindi tra di loro non ci sono questi grandissimi conflitti. Secondo me le problematiche vengono un po' più dall'alto, quindi dall'educazione a casa, vengono dai genitori, dai messaggi sbagliati e negativi che passano spesso dalla televisione. Questo secondo me è il problema, perché i ragazzi tra di loro non si discriminano, ma lo fanno in modo veramente come lo potevo fare io a scuola, quindi scherzando. Dobbiamo solo fargli capire che spesso dietro quelle parole che loro utilizzano ci sono delle storie. Quindi dire al tuo compagno di banco magari sei ciccione, in quel ragazzo magari che è un po' più debole può creare dei problemi, questo sicuramente. Gli diremo di pesare le parole, quindi le parole hanno un significato ben preciso, però ci siamo stupiti perché ci siamo resi conto che i ragazzi spesso tra di loro sono molto molto molto più avanti dei discorsi che fanno sociologi o che sentiamo a volte in dibattiti televisivi, dove si pensa ai ragazzi di oggi come ragazzi violenti che stanno tutto il giorno davanti alla PlayStation. Non è assolutamente vero e ve lo posso confermare. Antonio, noi col nostro programma tentiamo di avere una visione europea. Questo potrebbe essere un progetto assolutamente replicabile davvero in ogni scuola dei 28 paesi dell'Unione? Per noi è un progetto pilota, ci abbiamo provato, ci abbiamo investito non solo fondi, ma investito anche tanta passione e tanto sforzo anche da parte nostra. Noi dell'UNAR cerchiamo di essere presenti ogni volta insieme ai rapper, perché pensiamo che andare nelle scuole e parlare di questi temi sia il nostro primo obiettivo, il nostro primo risultato più grande è farlo entrare nella scuola. Ha ragione Amir, lui parla dice che i ragazzi fra di loro non si discriminano, ma è quello il vero segreto. Il segreto è che quando si conosce in realtà non è possibile discriminare, si discrimina chi non si conosce. E noi stiamo entrando nelle scuole in vari modi, abbiamo pensato a questo progetto che è sicuramente replicabile, che noi cercheremo di replicare in altre scuole, ce lo stanno chiedendo dappertutto, ci scrivono studenti chiedendo di poter avere lezioni anche nelle loro scuole. Ma stiamo utilizzando anche altri strumenti, noi abbiamo altri progetti con cui entriamo nelle scuole, sempre con i fondi sociali, con il teatro, con un videogioco, con i vari strumenti e i vari linguaggi che più possono appassionare gli studenti. Sono tutti progetti pilota che poi vorremmo riproporre anche a livello internazionale, perché penso che anche su questo l'Italia possa dare dei buoni esempi e delle buone prassi. Amir, che cos'è la tua pelle? La mia pelle è una metafora, la mia pelle è tutta la mia vita, la mia pelle è del colore della terra, della sabbia, quindi del colore dell'Italia, dell'Egitto. Mio papà egiziano è immigrato qui a Roma nei primi anni 70, mia mamma italiana che veniva da un paese vicino Roma, dalla Ciociaria, si sono incontrati, sono stati dei pionieri delle coppie miste, chiamiamole così, e la mia pelle rappresenta tutto questo, quindi assolutamente la metafora più grande della mia vita, il colore della mia pelle. E allora ascoltiamo la mia pelle. È come terapia, un uomo che si sente libero scrivendo una poesia. Quando incrocio le mie mani lo faccio per pregare, il mio pensiero va alle vite in bilico, va in alto mare. E se sono qua io ringrazio mio padre che ha lasciato tutto, ha trovato il coraggio per scappare. Io figlio delle ambizioni della vita, scrivo su questa panchina, sono Ibiza e Costa Rica e non guardo più la TV, non credo ogni giornale. Da quando leggo questi libri ho iniziato a pensare, vado in giro con la faccia di chi non ha più paura, sono un uomo tutto il mondo chiuso in queste quattro. Potere alle parole, il rap nelle scuole contro le discriminazioni, ma il potere alle parole per fare contaminazione, per fare incontro, per fare una nuova cultura della convivenza, credo che possa essere il miglior auspicio per il 2014 europeo. Un grazie ad Antonio Giuliani, unar.it, il sito ufficiale per conoscere tutti i progetti. Un grazie ad Amir e a tutti gli altri rapper. Amir, mi raccomando, porta il nostro in bocca al lupo e complimenti. Grazie. Ciao e buon anno. E questo grazie, questo augurio a tutti voi che siete stati in nostro ascolto e alla squadra dell'Altra Europa, Valeria Bernardi e Pietro Lacorte oggi alla parte tecnica, invece Margherita Ina e Miriam Lucchetti che con me hanno scritto la puntata. Radio24.it, il nostro sito per riascoltare e scaricare il podcast. L'Altra Europa, @radio24.it, invece la nostra mail se volete contattarci. Ancora grazie, ancora buon anno da Federico Taddia. Ciao! L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.